levamo a tu per tu, sopra una nuvola lassù, nel cielo pieno di mistero, se il mio sogno fosse vero, non vorrei venir più giù. Sopra una nuvola, con te, l'amore facile, e viene da te, lontan dagli uomini, dalla città, si può amare con libertà. Su quella nuvola, lassù, andremo in gondola, il cielo blu, e mentre scivola, scivola e va, pur l'amore scivolerà. Col cuor giocondo, lungi dal mondo, se un fumo biondo sorriderà, sarà Cupido, angelo fido, del nostro nido di felicità. Sopra una nuvola, con te, pur se il telegrafo ancora non c'è, ti arriveranno gli auguri lassù, fermo posta, nuvola blu.